peanuts, all peanuts. All peanuts, all peanuts. All peanuts, all peanuts. Salt Peanuts. Jazz on Megahertz. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Oggi diciamo che è un'immagine, anche una sorta di riflessione su quello che accade in Francia da un punto di vista musicale. E, nello specifico l'attività di alcune orchestre che sono da anni presenti sulla scena francese e che diventano una specie di territorio di confronto tra musicisti, di scuola di formazione, quindi sono dei workshop permanenti. Questi, tra l'altro, sono le tre orchestre che ascolteremo, provengono da territori diversi, da Parigi, da Lille e da Lione. Il concetto proprio dell'orchestra, anche finanziata dal Ministero della Cultura, è un'occasione proprio di formazione, che peraltro ha anche formato diversi musicisti italiani, e questo diventa l'occasione proprio per una formazione che conferma l'elevata qualità musicale che si trova in Francia e anche, come dire, la quantità, senza voler pensare necessariamente alla supremazia di personaggi, ma è proprio la condivisione, la capillarità, diciamo, della diffusione musicale, che dà possibilità indubbiamente interessanti e di livello elevato. Il primo gruppo è sicuramente quello forse meno conosciuto, si chiama Amping Machine. Si sono conosciuti in Italia l'anno scorso, perché al Festival di Bolzano sono stati presentati anche con varie formazioni. Questi Ping Machine è una formazione dovuta al chitarrista Frederic Morin, e tra l'altro all'interno di questa formazione poi si danno vita anche a gruppi, a piccoli combo che sviluppano poi anche dei progetti diversi. Questo lavoro è uscito un paio d'anni fa, anche l'ultimo che hanno prodotto, e ne dà un'immagine proprio anche di una qualità decisamente elevata. È nato sull'interesse che suscitava anche la scrittura di Frank Zappa, quindi si muove intorno a questi territori, però naturalmente avendo anche una personalità e una sua strada che viene sviluppata poi. Ascoltiamo un brano da questo disco uscito 2 anni fa, intitolato Encore. Questa era l'orchestra dei Pink Machine, guidata da Frédéric Morin. Al baritono abbiamo ascoltato l'assolo di Guilherme Christoffel. E una bella orchestra, abbiamo sentito, con un drive molto, molto teso. Peraltro questo tipo di attenzione, anche di richiamo a una tradizione della scrittura orchestrale, è presente un po' in tutta l'esperienza francese, questo perlomeno è un filo conduttore. Altra orchestra, anche questa non certo tra le più conosciute, ma sicuramente di più, è quella del Circum Grand Orchestra. Circum Grand Orchestra, anche questa ha al suo attivo ormai una dozzina di lavori orchestrali, e sono molti anni che lavora. È stata un'orchestra guidata fino al 14 da Olivier Benoit, chitarrista, che poi è passata alla direzione della ancora più titolata Orchestra Nationale de France, e lo scettro è passato al bassista che è Christophe Haché. È una formazione, questa del Circum Grand Orchestra, che anche questa è una sorta di anticamera del passaggio poi all'Orchestra Nazionale de Jazz, perché percorre un po' la stessa costruzioni di scrittura orchestrale, gli stessi arrangiamenti, gli stessi percorsi, quindi c'è un punto di contatto sicuramente, comunque con le sue diversità. Anche in questo caso sono lavori, tutti adesso ne ho sentiti diversi di dischi di questa orchestra, e sono tutti di livello, diciamo, di alto livello, di livello professionale decisamente alto. E ascoltiamo dall'ultimo lavoro uscito ormai diversi mesi fa, quasi un anno fa, era intitolato 12, appunto, proprio per indicare il numero dei lavori già usciti. Ascoltiamo un brano preso appunto da questo lavoro. Thank you. Thank you. Questo era il Circum Gran Orchestra, nell'ultimo lavoro uscito diversi mesi fa. Un'orchestra molto attiva sul territorio francese soprattutto, e che è una sorta di anticamera, come dicevo prima, per anche un passaggio nell'orchestra più conosciuta di questo tipo, perlomeno, che è l'Orchestre Nationale de France. L'Orchestre Nationale de France, detta anche Orchestra Nazionale de Jazz, NONDJ, è una formazione che ormai molti anni al suo attivo, dall'inizio degli anni '80, e ha la caratteristica anche di avere dei direttori artistici che si susseguono. Un'orchestra dovuta alla volontà e alla capacità di coordinamento di un sassofonista importante a suo tempo, forse tuttora una voce interessante, che era François Janot, un coltregnano, un ottimo sassofonista. Ha diretto questa orchestra per molto tempo, per molti anni. Poi si sono succeduti altri personaggi di punta, sempre però con un'attenzione particolare al workshop all'interno dell'orchestra. Era una sorta di nave scuola, di opportunità anche di organizzazione di tournée all'estero, che dava la possibilità a musicisti giovani di sviluppare le loro qualità, la loro esperienza nel rapporto all'interno dell'orchestra, che è sempre estremamente formativa, e poi anche quella appunto di misurarsi anche con un pubblico, con vari pubblici, con pubblici diversi. E attualmente l'orchestra è guidata da Olivier Benoit, che appunto, come dicevo prima, ha diretto il Circum Gran Orchestra per diverso tempo, e adesso è passato nell'ultimo anno a dirigere l'Orchestra Nazionale. Poi di altri nomi importanti non sono moltissimi, sicuramente c'è Bruno Chevillon al contrabbasso, e si sono succeduti anche tutti i musicisti importanti che sono passati dalla scuola di Lione, e quindi è un'esperienza questa che ha formato praticamente tre generazioni ormai, si può dire, di musicisti francesi, e appunto ha avuto anche altri musicisti come italiani, come Flavio Boltro, per esempio, che ha potuto godere di questa formazione. È uscito, come praticamente quasi tutti gli anni, sono moltissimi i dischi che hanno già prodotto, un lavoro, anche in questo caso ben riuscito, che testimonia appunto le capacità costruttive, creative. È interessante proprio, lo sviluppo della capacità di scrittura orchestrale, che diventa un punto di riferimento e una competenza che viene assorbita poi dai musicisti, che possono poi svilupparla a seconda delle proprie tendenze, dei propri interessi stilistici. Ascoltiamo alcuni brani presi da questo disco, che è registrato dal vivo a Berlino. sera l'Orchestra Nationale de Jazz, orchestra francese, peraltro finanziata anche dal Ministero della Cultura francese, e che è appunto l'occasione per mettere alla prova le capacità di costruzione e di esecuzione orchestrale. Abbiamo ascoltato gli alti livelli sia di scrittura che di esecuzione. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che le informazioni relative alla trasmissione, quindi i musicisti ascoltati, i dischi, potete trovare nel nostro sito radiocittafugico.it, alla sezione playlist. Salve a tutti, alla prossima. Sol peanuts. Jazz on megahertz. Sol peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Thank you.